Questo mar rosso mi ammollisce assia. Come se l'occhio mi piovesse in per vendicarmi a fuoco un palao. Che fai? Nete le viti, guarda un mar di mille comignoli faliti. A ferro per colpore, un vecchio fabile in cui canta fuori. Vive in occhio a fame un signor. Le tue rendite orette da un pezzo non ricevere, le più fanno prevere. Rodolfo, voglio dirti un mio pensier profondo. Un prezzo tale che Dio Marcel non ti nascondo, che non creda al flor della fante. Odiacciate le dita, ma se importate le signorate, giunta la gran ghiacciaia, nel cuore di pecca l'amore, un caminetto che si fa troppo. E in fretta, dove l'ho messa? E la donna è d'alare, l'uno brucia in un soffio, e l'altro sta a guardare. Ma intanto qui si gela, e si muore di radia, poco si vuole, aspetta, sacrifichiam la fetia. Provati! Ma tu sai che io l'idea la mia fiamma, non c'è il mar rosso, la sera di tinta, il mio mamma, al verde di un mamma, che fai di? Vuoi crescerlo forse, di genia, in quella casa di spalti, e le prime cieli, andando minaccia per Roma in periglio. A te la tua primo qua minaccia, attendi e li accavaglio e li accavaglio. Una fiammata al fuoco, lo trovo scintillante, ma dura poco. Autore a me la sedia, questi intermetti fa morir di nebbia, retta, atto, secondo, far soccorro. Pensiere profondo, la parola, quell'azzurro, questo languente fu parlando c'era da noi. Ma la c'era un pace e a corgoglio non puoi morire. Al bello odio l'idea si integra, bella la vedra, va a morir. oddio, già sta matta la fiamma, e vano che fragile dramma. Una sedia, presto, non ho corre vorrei e correre andiamo beva dell'ultimo trimestre no piacere e qui hai ora un corpo grazie copiam alla tua luce a lei ne vengo perché il trimestre corpo mi promise promisi ed or mantengo e fai sei pazzo ha visto oreria resti un momento in nostra compagnia da quant'ansia caro signor Ferrari per carità nostra età di più, molto di più ha detto tu e tu l'altra sera l'alma villa ancora fa in peccato d'amore io l'alma villa l'altra sera ancora fa anneghi è un fatto bella vostra e tutto ricone una querca un cannone vado il crin ritrugue ricone e i gangala artillo e fecco un vecchio marro vecchio artillo e fecco io vede alla dove tu ora venerdì pago si sa è uno svago qual vento ne t'allegra e un po' dico una balena uno famondo un grito tondo da luna piena mamma verrà proprio magra no, poi no le donne magre son rattacapi e questo sopra capi e son piene di doglie per te Io resto porta spettarella basso dal portiere. Ritardi udrai che cava. In due minuti taglia corto la coda al tuo castor. Occhio la scala, pienti alla ringhiera. Adagio. E buio festo. Maledetto partia. Accidenti. Colline, sei morta. Non ancora. Viene presto. Non sono in vera, si è là una donna. Bambina, ora per me sta piacenza il giorno. cosa faccio, vivo e come vivo, vivo. Importa mia lieta, cara gran signore, rivedimi d'amore, per togli a fare di me. Thank you. fata. Ol cuncolo, accidenti al pigro, scriva ancor tre di cazzolo. Oh, amici, pensi hai le tue, e te ne fai va. Non son solo, siamo in due. Andate da me, tenete il posto, ci faremo un posto. Bravo la poesia. Happy.